24, la storia. Un paese sull'orlo della guerra civile. Questa è l'Italia del 1948, subito dopo l'attentato a Palmiro Togliatti, il segretario del Partito Comunista Italiano. Quella che raccontiamo oggi su Mix 24 è la storia di un anno cruciale per l'Italia, il 48, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, in cui si svolgono le prime elezioni democratiche dopo il ventennio fascista e la guerra. Ma una mattina di sole, calda e afosa, l'orologio della storia rischia di tornare indietro. È il 14 luglio del 48. 14 luglio 1948, ore 11:45. Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, cade in terra ferito. A sparare è Antonio Pallante, 24 anni, siciliano. In tutta Italia il popolo della sinistra insorge. Ma cosa è successo esattamente quel giorno? Antonio Pallante ha davvero agito da solo? E perché ha sparato al leader del Partito Comunista Italiano? Davvero l'Italia è arrivata a un passo dalla guerra civile? Ma intanto, chi era Palmiro Togliatti? Nel 1921, insieme ad Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti fonda il Partito Comunista Italiano. È subito un leader. Si firma Ercoli, lo chiamano il migliore. Ma l'avvento di Mussolini lo costringe a rifugiarsi a Mosca. Dal 1926 la sua casa sarà l'Hotel Lux, dove risiedono tutti i rappresentanti del comunismo mondiale. È in questo clima che si forma la sua personalità di politico intransigente e risoluto. Ce ne parla Armando Cossutta. Benedetto Croce disse di lui totus politicus, è totalmente uomo politico. E con lui era difficile non parlare di politica. Ma non è vero che lui fosse così freddo. Io anzi mi ricordo come lui fosse curioso, voleva sapere tutto, voleva conoscere cosa succedeva, che cosa dicevano i compagni, ma che cosa succedeva anche, dice, ma tu che film vai a vedere, che libri preferisci? Con la caduta del fascismo, Togliatti torna in Italia. Il 27 marzo 1944 sbarca in una Napoli gravemente segnata dalla guerra. La città è in preda alla fame e alla miseria. Per prima cosa Togliatti bussa alla federazione locale del Partito Comunista, ma sono passati 18 anni, nessuno lo riconosce. Deve spiegare di essere Palmiro Togliatti, con un programma preciso. Ce ne parla lo storico Luciano Canfora. Viene in Italia con un programma che è sostanzialmente concordato da Stalin ed è un programma strettamente moderato e italiano, che è appunto quello che poi ha fatto come leader dei comunisti. 30 marzo 1944. Mentre il paese è ancora spaccato in due, dilaniato da una guerra terribile, il Partito Comunista tiene a Salerno il primo Consiglio Nazionale delle Regioni Liberate. Togliatti detta subito la sua linea. La prima mossa è dirompente. Impone di rinviare tutto il problema istituzionale, monarchia o repubblica, a dopo la fine della guerra. Ritiene prioritaria la costituzione di un governo di unità nazionale composto da tutte le forze antifasciste. È la bomba Ercoli. Quel 30 marzo 44 passerà alla storia. È il giorno della svolta di Salerno. Quelle di Togliatti sono dunque scelte caute, di apertura. Tanti, però, le considerano solo mosse tattiche. Temono il comunismo, quel comunismo così freddo e calcolatore. Per molti, insomma, Togliatti è sempre solo l'uomo di Mosca. Sentiamo lo storico Silvio Pons. Era l'uomo di Mosca e di Stalin, direi, innanzitutto. E nello stesso tempo fu anche, è un paradosso della storia, ma le cose stanno così, uno dei padri fondatori della Repubblica. Con la svolta di Salerno, dunque, Togliatti traghetta il Partito Comunista dall'utopia rivoluzionaria all'accettazione delle regole della democrazia. E Togliatti, su questa scommessa, mette in gioco la sua stessa persona, diventando ministro con Badoglio prima e poi con Bonomi. Intanto, nelle fasi cruciali della guerra di liberazione, il Partito Comunista diventa uno dei punti di riferimento della lotta partigiana. 25 aprile 1945. Dopo mesi di resistenza partigiana e l'intervento degli alleati, l'Italia è libera. 29 aprile 1945. Milano. A piazzale Loreto vengono esposti i corpi di Mussolini e della sua amante Claretta Petacci. 21 giugno 1945. Nasce il primo governo del dopoguerra. A guidarlo c'è Ferruccio Parri, un uomo simbolo, un eroe della Resistenza. Togliatti è nominato ministro di Grazia e Giustizia, ma l'esecutivo Parri dura solo 6 mesi. 10 dicembre 1945. Si insedia allora il primo governo guidato da Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana. Togliatti è confermato nel suo incarico di guardasigilli. 18 marzo 1946 viene indetto il referendum istituzionale. Gli italiani sono chiamati a scegliere monarchia o repubblica. Il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. L'Italia è repubblica. Il 25 giugno 1946 cominciano i lavori della Costituente. Comunisti e forze moderate lavorano fianco a fianco per dotare il paese di una carta costituzionale che incarni i principi della democrazia. Ma l'Italia, piegata dalla guerra, non riesce a risollevarsi. Diviene allora indispensabile l'aiuto economico degli Stati Uniti. Il 4 gennaio 1947 De Gasperi vola a Washington. Il Super Douglas di De Gasperi ha combattuto parecchio coi venti dell'Atlantico. Eccolo posato dopo 58 ore di volo sull'aeroporto di Washington. 31 maggio 1947. De Gasperi, dopo aver ottenuto dagli americani gli aiuti previsti dal cosiddetto piano Marshall, forma un nuovo governo. Per la prima volta dalla liberazione, nell'esecutivo non ci sono più comunisti e socialisti. Togliatti non è più ministro, la contropartita per gli aiuti americani, come conferma lo storico Luciano Canfora. Gli Stati Uniti richiedono all'Italia una prova chiara di scelta di campo. Quindi impongono a De Gasperi questo cambiamento. Pur escluse dal governo, le sinistre in assemblea costituente continuano il dialogo con i moderati e così il 1 gennaio 1948 la Costituzione è varata. Su Mix 24, con la storia di Palmiro Togliatti, continuiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Palmiro Togliatti. Nell'Italia del 48, un anno cruciale nella storia della nostra Repubblica. Esaurita infatti la collaborazione tra le forze antifasciste nell'Assemblea Costituente, per il 18 aprile sono indette le elezioni politiche. La corsa verso il voto si profila da subito come uno scontro, a tratti durissimo, tra due grandi forze. Da un lato il Fronte Popolare con il Partito Comunista di Palmiro Togliatti, alleato con i socialisti di Pietro Nenni. Dall'altro la Democrazia Cristiana guidata dal Alcide De Gasperi. Al fianco di De Gasperi c'è sempre il giovane sottosegretario Giulio Andreotti. Sentiamolo. Io credo che se i comunisti e i socialisti si fossero presentati con liste separate, come avevano fatto per l'Assemblea Costituente nel 1946, ci sarebbe stata meno tensione. Il mondo cattolico considera la sinistra come una terribile minaccia. Togliatti, il senza Dio, diventa il nemico pubblico numero uno. E allora il Papa Pio XII decide di passare al contrattacco. La grande ora della coscienza cristiana è sonata. Chi non è con me è contro di me. La propaganda elettorale si scatena. Su entrambi i fronti si alimenta un clima di odio reciproco. La Chiesa in fondo difendeva se stessa, quindi, allora questo certamente creò un clima di grandissima tensione. Siamo in era pre-televisiva e quella campagna di persuasione di massa fatta di manifesti e cinegiornali ottiene un effetto dirompente. Dal santuario di Pompei parte l'immagine miracolosa della Madonna. Sulla facciata di Santa Maria degli Angeli in Assisi si viene a vedere la Madonna che dal suo aereo pulpito di pietra con le braccia di bronzo benedice. Anni fa per la prima volta il piede di Natuzza Evolo sudò sangue. Ora Angela prega le brevi immense parole della salutazione. Ave Maria. E la Vergine anche questa volta è apparsa. Poggiava sull'aiola i piedi scalzi. Ce le dici anche a noi, Angela, le parole della Madonna. Pregate, ha detto, e io salverò l'Italia. Il fronte cattolico fa leva così sui sentimenti religiosi del popolo italiano. Ma in campo non c'è solo il Vaticano. Sul vecchio continente è calato il sipario di ferro e l'Italia è il crocevia di due blocchi. il comunismo rappresenta una minaccia reale. L'Unione Sovietica ha infatti invaso la Cecoslovacchia con la forza brutale del suo esercito e sul Partito Comunista di Togliatti grava il sospetto di voler avallare un'azione analoga anche in Italia. A parlarcene è l'onorevole Pietro Ingrao. Noi facevamo le lezioni poche settimane dopo i gravissimi fatti di Praga, dove ci fu ancora un altro esempio dell'offensiva dello stalinismo che ancora resisteva in URSS e che aveva spazzato via sia una parte di comunisti che non erano consenzienti con la linea moscovita e sia poi gli alleati che lottavano insieme con noi. Avevamo, direi, più che ragione di avere paura. Quando successivamente la tesi di molti comunisti e di socialisti hanno detto no, ma da noi sarebbe stato diverso. E perché? Io non credo che i comunisti polacchi, i comunisti cecoslovacchi volessero qualche cosa che li facesse contare poche e che contasse solo l'Unione Sovietica, però c'era da gustare e alcuni erano finiti anche male. In quegli anni, insomma, almeno secondo Andreotti, c'era davvero la paura dei comunisti. È la paura della rivoluzione, la paura dell'Unione Sovietica, la paura dei piani dettagliati per realizzare colpi di Stato come ad esempio il fantomatico piano K negato da Armando Cossutta ma temuto da Giulio Andreotti. Sentiamoli. Non c'era nessun piano K né interno né internazionale. Furono fabbricate vere e proprie falsificazioni. Questi piani di insurrezione, ora, non erano fantasiosi perché il rastrellamento di armi era notevolissimo. Allora, questo piano, su cui poi si è tanto discusso, sembrava l'invenzione di Selva, no signori, i piani c'erano. Le tante manovre occulte determinano un quadro che crea attorno al voto del 48 un clima di alta tensione, anche perché, secondo molti osservatori, in caso di vittoria del Fronte Popolare, gli Stati Uniti avrebbero impedito con ogni mezzo, anche con la forza, l'ascesa di Togliatti, come racconta lo storico Luciano Canfora. Gli americani e gli Stati Uniti hanno predisposto dei piani di intervento, che consistevano nell'intervento militare in Sardegna, l'insurrezione in Sicilia, sabotaggi nel nord, e quindi stato di emergenza, necessità di un intervento militare, viene cacciato il governo appena eletto. Questo era lo scenario. Alla mezzanotte di venerdì 16 aprile 1948 si chiude una campagna elettorale intensissima. Il Fronte Popolare sente la vittoria in tasca. A ricordarlo il giornalista Pietro Ingrao. Io ricordo le notizie che ci venivano dalla periferia, parlavano tutti di un esito buono, legato questo anche alla straordinaria efficacia, successo, dei comizi che andavamo facendo per tutta l'Italia e dalle notizie che ci venivano con una grande partecipazione di popolo. Gli ultimi appelli hanno il sapore della chiamata alle armi. De Gasperi arriva ad insinuare che Togliatti abbia il piede forcuto come il diavolo. La replica del segretario comunista non si fa attendere. Togliatti non usa mezzi termini, dal palco grida parole sferzanti. Ho fatto mettere alle mie scarpe due file di chiodi e ho deciso di applicarle a De Gasperi in una parte del corpo che non voglio nominare. Un elettore mattutino, Palmiro Togliatti, alle 8.30 ha già deposto il suo suffragio nelle urne di Vicolo Valdina. Sono circa le 10 quando un altro elettore si avvia alla sua sezione, via delle Fornaci. Milioni di uomini hanno ascoltato la sua parola. Ora le urne stanno accumulando le risposte a quei discorsi. E le risposte alle urne arrivano martedì 20 aprile 1948. Votazione per la Camera dei Deputati. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12.700.000 voti, pari al 48,7%. Il Fronte Popolare ha raccolto solo il 30,7% dei voti. Per la Democrazia Cristiana invece è un vero trionfo. Vince l'asse cattolico, vince il Vaticano, ma è soprattutto la vittoria di Alcide De Gasperi. La Democrazia Cristiana dunque ha stravinto. Per il Fronte Popolare è una sconfitta bruciante, eppure Togliatti da un giudizio del voto completamente diverso. Ce ne parla lo storico Luciano Canfora. A risultati ormai noti, Togliatti disse: questo è il miglior risultato che potessimo avere. Togliatti si è augurato la sconfitta. Cioè egli ha capito prima di altri, molto più in profondità andando, che una vittoria avrebbe determinato quello scenario che, portando l'Italia fuori della divisione in blocchi stabilita tra le grandi potenze, avrebbe implicato un intervento, quindi una reazione popolare fortissima a difesa del risultato conculcato. Quindi quel famoso spettro della guerra civile che lui continuava a voler esorcizzare. Quindi il miglior risultato possibile significa: per ora governano loro. La vita istituzionale ricomincia. L'8 maggio si insedia il nuovo Parlamento. L'11 maggio Luigi Einaudi è eletto primo presidente della Repubblica. Il 23 maggio De Gasperi forma il suo governo. Ma il clima resta teso. Dopo il voto i comunisti hanno gridato al tradimento. Il Partito Comunista ha pubblicamente sostenuto che quelle elezioni fossero da invalidare perché gli elettori avrebbero subito pressioni, intimidazioni, violenze. La mattina del 13 luglio il quotidiano L'Umanità, organo ufficiale dei socialdemocratici di Saragat, attacca violentemente Palmiro Togliatti. Il deputato Carlo Andreoni scrive parole di fuoco. Il governo della Repubblica e la maggioranza degli italiani avranno il coraggio, l'energia e la decisione sufficienti per inchiodare al muro del loro tradimento Togliatti e i suoi complici e per inchiodarveli non solo metaforicamente. Ce ne parla Giulio Andreotti. Questo Andreoni, che aveva scritto un articolo terribile, quasi incitando all'omicidio, però era un personaggio a sé stante, ex comunista, divenuto socialdemocratico, ma esprimeva una tendenza assolutamente individuale. Proprio in quei giorni di luglio un giovane siciliano lascia Randazzo vicino a Catania e sale su un treno. La sua destinazione è Roma. Quel giovane ha 24 anni, il suo nome è Antonio Pallante, sentiamolo. Facevo comizi nei vari centri del catanese e andavo proprio inculcando agli altri quelli che già ormai erano i miei sentimenti veri e propri, quelli di un nazionalismo portato all'estremo. Pallante era un giovane, come si dice, una testa calda, era un ragazzo un po' sbandato, universitario fuori corso. Aveva fatto una certa campagna elettorale per l'uomo qualunque, raccoglie 9.000 lire dal padre, dagli amici, eccetera, dice per andare a Roma e trovare un posto. Avete sentito il giornalista Gigi Speroni. Prima di partire Antonio Pallante ha comprato una pistola. Arrivato a Roma prende alloggio in una modesta pensione in via del Macao e si dirige subito alla sede del Partito Comunista. Ancora Gigi Speroni. Prima di tutto dice: vado a Botteghe Oscure. Riempie un modulo, vuole essere ricevuto dal compagno Togliatti. E naturalmente quelli dicono: caro compagno, sai quanto ha da fare? È il 13 luglio. Pallante ha pochissimi soldi e non può perdere tempo. Decide di recarsi a Montecitorio. Due deputati, un comunista e un democristiano, gli concedono due pass per assistere alle sedute del Parlamento. Pallante vuole memorizzare l'aspetto di Togliatti. La mattina del 14 luglio Togliatti si è recato alla Camera. Ce ne parla Giulio Andreotti. Stavo parlando dal banco del governo, ero con il sottosegretario, un tema noioso però importante, i criteri con cui si dava la carta ai giornali, la carta era razionale, quindi una cosa quasi burocratica, tant'è vero che Togliatti, che era lì ed era uno molto diligente, se ne andò, voleva andare a prendere il gelato. Su Mix 24 stiamo raccontando la storia del leader del Partito Comunista Palmiro Togliatti negli anni immediatamente successivi alla caduta del fascismo. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia del segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti. E la mattina calda del 14 luglio del 48, dopo essersi recato in seduta a Montecitorio, Togliatti decide di andare al bar con la sua compagna, la parlamentare comunista Nilde Iotti. Antonio Pallante ha saputo che il segretario spesso non esce dall'ingresso principale ma passa da una porta secondaria in via della missione. Decide allora di appostarsi tenendo d'occhio la porta d'uscita. Alle 11.45 quel portone si apre. Accade tutto in un attimo. Pallante esplode 4 colpi ravvicinati, 3 vanno a segno. Togliatti cade in terra. I carabinieri accorrono e bloccano Pallante. Intanto Togliatti è morente. Viene trasportato di corso al policlinico. Ce ne parla l'onorevole Pietro Ingrao. Beh, la notizia era sconvolgente. E prima cosa io ho riunito subito la redazione per vedere come potevamo fare subito e immediatamente l'edizione straordinaria. E quell'edizione straordinaria a tempo di record arriva nelle strade della capitale. Togliatti è a un passo dalla morte. Una moltitudine di persone infuriate scende in piazza per manifestare. Ore 13. La capitale è nel caos. Il policlinico di Roma è preso d'assalto da migliaia di persone. Vogliono sapere se il migliore riuscirà a sopravvivere. Ma Togliatti è in condizioni disperate. E all'emozione subentra la rabbia. La CGIL proclama immediatamente lo sciopero generale. Il popolo comunista dà vita a un'insurrezione spontanea. Gruppi di rivoltosi sono pronti a scatenare l'inferno. Mentre l'Italia è in subbuglio, scossa dai focolai di rivolta, al Policlinico di Roma un'equipe di medici si immobilita per salvare la vita di Togliatti. Sentiamo Mario Spallone, il suo medico curante. Io fui informato immediatamente e mi portai all'Istituto di Patologia Chirurgica. All'Istituto di Patologia Chirurgica dove c'era il professor Valdoni. Nel dramma per Togliatti c'è un po' di fortuna. Valdoni è un grande chirurgo, ma le condizioni del paziente sono molto gravi. Sentiamolo. Era su una barella, aveva della schiuma rosa alle labbra, respirava con molta fatica, era piuttosto cianotico. Roma, ore 15. Togliatti è sotto i ferri. In tutta Italia cominciano a verificarsi episodi di violenza. In piazza ci vanno soprattutto quelli che hanno inseguito un ideale rivoluzionario ormai sconfitto. Ma le notizie sono ancora molto confuse. Ce ne parla Armando Cossutta. Arrivò questa notizia all'improvviso, un compagno, un giovane venne di corsa, dice: hanno sparato a Togliatti, hanno ucciso Togliatti. Ma non si sapevano i particolari, quindi tra loro Togliatti è tra la vita e la morte, non si sapeva. Ovunque spuntano pistole, fucili, bombe a mano. La guerra è finita da soli 3 anni. Molti italiani custodiscono ancora un'arma e ora sono pronti ad usarla. Ce ne parla Maurizio Caprara. Erano le armi che i comunisti, i partigiani comunisti, avevano trattenuto con sé, dando una parte di quelle più scassate o più ingombranti alla consegna ufficiale delle armi che serviva ad avviare la riconciliazione nazionale e la smilitarizzazione del paese. Ore 15:30, Togliatti ancora in sala operatoria. A Botteghe Oscure i vertici del Partito Comunista decidono di chiedere le dimissioni del governo. Alle 16:15 del 14 luglio la Camera è convocata in seduta straordinaria. Mentre si svolge il dibattito in aula, il paese brucia. I partigiani sono usciti nuovamente allo scoperto. Mostrano spavaldamente le armi e sono pronti a tutto. Ovunque si registrano scontri violentissimi tra manifestanti e forze dell'ordine. Lo sciopero generale rischia di trasformarsi in un bagno di sangue. I lanci dell'agenzia ANSA sembrano un bollettino di guerra. Milano, una folla oceanica si è radunata in Piazza del Duomo, mentre gli operai bloccano i dirigenti delle fabbriche all'interno degli stabilimenti. Bologna, 24 feriti, di cui 20 poliziotti. Napoli, morti 2 dimostranti. Livorno, un agente è ucciso da una coltellata. Pisa, un simpatizzante dell'MSI carica a cavallo la folla e muore linciato dai manifestanti. Da nord a sud è un'ondata di violenza e nel frattempo Genova, città storica rossa, è messa a ferro e fuoco, come racconta il giornalista Maurizio Caprara. È scattato come un piano di difesa, come se i partigiani fossero ritornati in armi con l'idea di difendere a cerchi concentrici la città di Genova. Roma, ore 17. Il professor Valdoni ha concluso l'intervento. Dalla ferita fino al torace, dopo 3 ore, le 3 pallottole sono sul comodino. Sentiamo Valdoni. Questa così schiacciata, questa qui è quella che si è schiacciata contro la protuberanza occipitale. Un'altra conserva l'impronta della costola che ha colpito. La terza, che è senza segni, è quella che è entrata nel tenero, ecco, che è entrata e rimasta nel polmone. L'intervento ha avuto buon esito, ma Togliatti è sempre in condizioni molto critiche. Intanto, a Torino, gli operai della Fiat in rivolta occupano l'ufficio di Valletta. ma l'amministratore delegato li fredda minacciando il licenziamento. È un pomeriggio infuocato, nessuno riesce a placare la rabbia della folla. Da Roma in su ogni città è sconvolta dalla violenza dei manifestanti. Si bloccano treni e mezzi pubblici, il lavoro nelle fabbriche è interrotto, il clima è quello dello scontro civile. Roma, ore 22. Togliatti continua a combattere tra la vita e la morte. Per l'Italia intera è stata una giornata di ordinaria follia e chi non ha preso parte alla rivolta ha ascoltato la radio con il fiato sospeso. Ma quelle radio accese in tutte le case italiane non daranno solo notizie dell'attentato e dei movimenti di piazza. In questa vicenda così complessa e violenta, infatti, si inserisce un episodio diventato quasi leggendario. Sera del 14 luglio, ignari di quanto accade in Italia, i ciclisti del Tour de France si preparano alla tappa di montagna in programma l'indomani. Tra loro c'è Gino Bartali, ma il suo tour è quasi finito. Per il vecchio ginettaccio non c'è più speranza. Il suo ritardo dalla maglia gialla del francese Louison Bobet appare incolmabile. 21 minuti. A parlarcene lo scrittore Gigi Speroni. Oh, quanta strada nei miei sandali! Bartali è in albergo e vede che i giornalisti fanno le valigie e dice: ma cosa, andate via, non è mica ancora finita, vedete? E dicono: no, hanno sparato a Togliatti. La leggenda vuole che De Gasperi la sera di quel 14 luglio abbia telefonato a Bartali, noto attivista cattolico, per sollecitarlo a vincere. Un suo successo può rasserenare il clima violentissimo che spacca l'Italia. Bartali obbedisce e quel 15 luglio 48 sulle durissime salite delle Alpi francesi detta legge. Gli avversari non riescono a tenere la sua ruota. Bartali stacca tutti, recupera il suo vantaggio, firma una grande impresa. Per una volta l'uomo solo al comando è lui e non l'eterno rivale Fausto Coppi. Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali! Sull'Italia travolta dalla violenza arriva dunque l'annuncio di un grande trionfo sportivo. Una notizia così entusiasmante da placare, secondo alcuni, la rabbia dei manifestanti. Sentiamo Giulio Andreotti. Durante la seduta un nostro coltivatore diretto, Tonengo, entrò dicendo: Bartali ha vinto. Allora questo provocò una certa distensione di anni, però insomma, dire che Bartali abbia salvato l'Italia, beh, è più che un'esagerazione. La notizia della vittoria di Bartali è solo in parte un effetto calmante. Qualcuno sceso in strada per sfogare la rabbia esulta per Bartali, chiede notizie, ma non è il ciclismo a poter ricondurre tutti alla ragione. Il 15 luglio è comunque una giornata di rabbia, devastazioni, violenze. Gli scontri in molte piazze continuano. Su Mix 24, con la storia dell'attentato a Palmiro Togliatti, continuiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi raccontiamo la storia dell'attentato al leader del PC, Palmiro Togliatti. Mentre l'Italia è in rivolta, il 15 luglio del 48 arriva la notizia del trionfo di Bartali in Parlamento. Ma questo non serve a placare in Parlamento lo scontro tra governo e deputati dell'opposizione. Volano parole violente, sotto accusa c'è soprattutto l'operato del ministro Scelba, che secondo i suoi oppositori avrebbe tentato di sedare la rivolta scatenatosi dopo l'attentato a Togliatti con metodi fin troppo energici. Ce ne parla l'onorevole Pietro Ingrao. Ci furono delle risposte odiose della polizia che portarono ad altri morti e questo insomma, certamente sollevava una collera, un'indignazione. Da parte stesso di De Gasperi non ci fu una comprensione, un rispetto per una sventura di quel genere lì che aveva colpito l'avversario. Scelba diede sempre, anche quando i mezzi la polizia non li aveva, diede sempre il senso che lo Stato c'era e che non avrebbe assolutamente tollerato una rivoluzione. Avete sentito l'allora deputato Oscar Luigi Scalfaro, ma le forze a disposizione di Scelba non sono così ridotte. In quel momento l'ordine pubblico è garantito da 200.000 uomini, più che nel tempo del fascismo. Scelba in aula si difende ostentando tranquillità. È in gioco la sicurezza e la libertà dei cittadini in questi avvenimenti. Ho detto che il governo ha fatto l'uso, il più moderato possibile, dei suoi poteri. Ha subito e ha lasciato subire alle proprie forze delle perdite dolorose. Ma nessuno si illuda. Se la Repubblica e il regime libero del popolo italiano dovessero essere compromessi, il governo userà tutte le forze in suo potere per ristabilire l'ordine. Il discorso di Scelba è continuamente interrotto. Dai banchi della sinistra giungono proteste e insulti, come racconta Oscar Luigi Scalfaro. Scelba entrò in aula con un pacco di fascicoli enorme e cominciò a leggere le violenze che erano state fatte. All'inizio urlavano, ma Scelba aveva una tattica per cui non raramente alzava la voce. Quando lo interrompevano, ricominciava il periodo dall'inizio. Il Partito Comunista lancia accuse e chiede le dimissioni del governo, ma quel dibattito, nonostante i toni violenti, è comunque una valvola di sfogo. Mentre governo e opposizione si fronteggiano in Parlamento, dal Monte Amiata, in Toscana, giunge la notizia di un episodio gravissimo, come racconta Pietro Ingrao. Ci furono delle cose sconvolgenti in tutta Italia. La cosa più clamorosa, come sapete, fu Abbadia San Salvatore, che era un paese della Toscana rossa, dove fu proprio il popolo che prese nelle mani tutto quanto il paese e, insomma, come dire, quasi pensando che si fosse alle soglie della rivoluzione. In Toscana, sulla Miata, si combatte per quasi due giorni attorno ad una centrale telefonica che assicura il collegamento tra il sud e il nord Italia. L'obiettivo dei manifestanti è di interrompere le comunicazioni e spezzare in due il paese. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine, ma alcuni rivoltosi appostati sulla strada che porta al monte bloccano un automezzo con a bordo due poliziotti. Gigi Speroni. Vennero presi e uno venne ucciso quasi subito. Un altro venne sequestrato e venne ritrovato poi morto, accoltellato e ammazzato. Si diffonde una voce. Palmiro Togliatti, immediatamente dopo l'attentato, si sarebbe raccomandato con un filo di voce. Non perdete la testa, avrebbe detto il migliore. A confermarlo, la compagna di Togliatti, la parlamentare Nilde Iotti. Il gruppo dirigente del nostro partito fu un gruppo dirigente che invece non perse la testa. E cioè seguì quel consiglio che Togliatti, mentre i compagni Longo, Secchia, Paietta, Mendola, altri compagni si stringevano intorno a lui, che veniva portato morente quasi in barella al policlinico, seguirono il consiglio che aveva loro dato: non perdete la testa. Questa frase diventa la linea del partito e la linea del partito è chiara. Niente follie, nessun attacco ai simboli dell'ordine della democrazia. Togliatti, dicono, è contrario. Tutti nel Partito Comunista ricordano sulla necessità di placare gli animi. Gli organismi del partito si sono riuniti più volte in queste ore convulse, trovando un'intesa all'unanimità, come conferma Pietro Ingrao. Io non mi ricordo che ci fosse un dissenso su questa scelta. Anzi, fu presa la decisione circa la durata dello sciopero e fu deciso che lo sciopero sarebbe durato 48 ore. Era chiara l'indicazione che con questo si voleva dare alle masse: protestate, manifestate, lottate, però non è scattata l'ora dell'assalto al potere. Intanto le condizioni di Togliatti migliorano. Il segretario, appena uscito dall'anestesia, ripete il suo invito alla calma. Ce lo racconta il suo medico curante, Mario Spallone. Era sempre sotto ossigenoterapia. Bastava togliere un po' di ossigeno e diventava scuro, no? Ma con fili di voce lui parlava, voleva essere informato, io ne informavo di tutto, piano piano, lentamente, perché voleva sapere. E quando gli disse che c'erano questi movimenti, mi disse: scellerati, che non facciano fesserie. E Togliatti forse davvero aveva ragione a preoccuparsi che la situazione potesse degenerare. Nuovi documenti inediti scovati all'archivio di Stato sembrano infatti confermare questi timori. Secondo questi documenti, il 15 luglio del 48 Scelba propone a De Gasperi di instaurare lo stato di polizia per fronteggiare i disordini. Un particolare rivelato dalla pubblicazione dei verbali di quel Consiglio dei Ministri. A Palazzo Chigi, nel corso di una lunghissima e burrascosa seduta del Consiglio dei Ministri, Scelba propone di dichiarare lo stato di pericolo nazionale che avrebbe consentito di affidare ogni potere alla polizia. Così Aldo Ricci dell'Archivio Centrale dello Stato. Lo stato di pericolo nazionale prevedeva la possibilità, per esempio in alcune città come Genova, che l'autorità passasse dai prefetti, quindi dall'autorità civile, ai militari. Scelba infatti nel corso della seduta a un certo punto parla di questa possibilità, ma De Gasperi la esclude subito, dice no, i militari non conoscono la situazione politica, non possono in una situazione di questo genere sostituirsi ai prefetti. È bene che le cose restino come stanno. La proposta di Scelba non piace a De Gasperi, anche perché il presidente ha incontrato il carismatico leader della CGIL, Giuseppe Di Vittorio, ricevendone segnali rassicuranti. I lavoratori rientreranno nei ranghi, non ci saranno altre azioni di forza. Con il passare delle ore la linea del Partito Comunista prevale. Non perdete la testa, diventa un passaparola. I manifestanti vengono ricondotti alla ragione. Nel pomeriggio del 16 luglio il clima di rivolta si è ormai placato. Il 17 luglio la vita riprende a scorrere normalmente. Il 19 Palmiro Togliatti è ormai fuori pericolo e rivolge al paese parole tranquillizzanti. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Togliatti si avvia alla piena guarigione. I rivoltosi, gli scioperanti tornano al loro posto di lavoro. La guerra civile è scongiurata. Ma gli scontri hanno comunque lasciato un segno. Il bilancio delle vittime è molto pesante. Le rivolte scoppiate in tutta Italia hanno causato 30 morti, 800 feriti, 7.000 arresti. Pallante ammette subito le sue colpe, ma afferma di aver agito da solo e dopo una rapida indagine verrà riconosciuto unico responsabile dell'attentato. Sentiamolo. Condannato in prima assise a 13 anni. In corte d'appello mi fu portata a 7 anni e poi la sezione, per motivi particolari di valore morale e sociale e per motivi politici, me la ridusse a 4 anni. Se avessi avuto un complice, se qualcuno avesse insinuato in me l'idea che ho nutrito, a distanza di tempo si sarebbe potuto ben scoprire. La tesi del complotto anticomunista non ha mai trovato riscontri. Sentiamo Oscar Luigi Scalfaro. Tutti i particolari li dico da magistrato. Non presentavano certo né un eroe risorgimentale che salvava la patria dal capo del comunismo, né niente di tutte queste cose. Un po' di infatuazione e un gesto pesantemente irresponsabile. Antonio Pallante sarà pienamente riabilitato, non avrà mai più problemi con la giustizia. Togliatti torna sulla scena il 27 settembre al Foro Italico di Roma. Vi ringrazio, compagni, di essere venuti da tutte le parti d'Italia, così numerosi, pieni di gioia e di entusiasmo. Il clima da guerra civile è superato, ma per concludere il nostro racconto vi lasciamo con un documento inedito del giugno del 1960, ritrovato dal giornalista Marco Durazzo presso la discoteca di Stato a Roma. In questo discorso Togliatti rievoca il suo rientro in Italia dopo 18 anni di esilio, quasi un ventennio trascorso tra Parigi, la Spagna della guerra civile e la Mosca di Stalin. Togliatti sbarca a Napoli e da Salerno ritorna protagonista sulla scena nazionale. Ascoltiamo le sue parole che rievocano le emozioni di quel momento dello sbarco, ma anche lo shock nel rivedere un paese distrutto. Arrivai a Napoli negli ultimi giorni del marzo del 1944. Ero partito da Mosca per giungere a Napoli. Quando giunsi a Napoli era una giornata brutta, ma la cosa più brutta era la situazione in cui si trovava allora il nostro paese, in cui si trovava quella parte d'Italia. Non si può dire che esistesse un apparato della produzione. Il siderurgico di Baia distrutto, gli alti forni dell'Ilva di Bagnoli fatti a pezzi dai bombardamenti. Non c'era lavoro. Il lavoro che c'era dipendeva tutto dalle unità di occupazione alleate. Uno scambio regolare tra la città e la campagna non esisteva. Se uno percorreva la strada da Napoli a Foggia, a Bari, si trovava di fronte ad uno spettacolo quasi apocalittico. Le strade erano piene di gente che andava con tutti i mezzi, con dei carrettini, col mulo, col cavallo, con l'asino, con dei mezzi motorizzati di fortuna, che poi venivano requisiti, scomparivano rapidamente, e andavano a cercare prodotti e a portare prodotti nelle città, e i prodotti venivano venduti a prezzi esorbitanti. La gente aveva fame.